volta l'ho presa, poi dopo quando ho visto che era con le condizioni, allora ho detto no, non mi voglio, ho detto capisco, ho detto guarda, allora mi pigliava la pelle di cielo in mano, me la compro nuova la roba, non le voglio per niente, ho detto tenete a conto, e questo si è per fatto. Dai, io devo pigliarmi una guasta, magari la metà, ma è guasta, mi la bozza. Comunque io sono del parere che l'HV è meglio farsela tagliare la valla piuttosto che prendere la confezionata, che possono fare questi inghippi qua. La carne è tagliata davanti, la vedi, perché con la confezionata ci mettono anche delle polverine rosse per far vedere che è tutto carne, quando sono c'è la carne grassa, per far vedere che è tutto polpa, ci mettono delle polverine rosse e tu non te ne accorgi nemmeno che ci sono polverine. Perché ci vengono i tumori mangiando tutte queste porcherie e loro fanno pasticci e noi non sappiamo nulla, come i dadi, come tutte queste cose qua, i dadi non sono fatti lo stesso da queste cose qua. Ma dove lavorate? A Vismara. La Vismara. Stanno modulando. Ehi Gianni! Aspetta, che appagato. C'è qualcuno che vuole entrare? Vai, un attimo lo facciamo entrare. Avanti. Avanti chi voleva entrare. Me adesso non entra, vabbè. Riprendi un pugno, a chi mi dovrebbe essere buttato. Mario, è così, non sappiamo cosa ci mettiamo in bocca. Mio padre ha campato 96 anni perché avevano la fattoria, mangiavano solo roba della fattoria, roba che coltivavano loro, conigli, galline e via dicendo. Facevano dei minestroni con tutte le verdure che coltivavano loro. Ma ha campato 96 anni, sempre vivo e vegeto, sempre che tranquillo, si usciva da solo e tutto. Sempre è stato così. E lui apprezzava, andava, si prendeva la rucola in campagna, le bietole, tutte queste cose qua, mangiava queste cose, gli piacevano le cose naturali. Ma beh, certo che sì. E chi le fa lo sa che cosa ci mettono in mezzo, e chi non lo sa è profano e mangia tutto quello che gli presenta al mercato, è normale. Vabbè, comunque io sin da ragazzo a me i gusti piacevano, perché mi piace proprio il sapore affumicato, e loro fanno quel sapore affumicato proprio per camuffare quello che mette. Ma poi il problema è questo, che molta gente è costretta perché i prezzi stanno aumentando alle stelle, gli stipendi e le pensioni rimangono sempre le stesse, quindi molta gente è costretta anche ad andare al discount per comprare tipo lo spin e roba del genere. Ma anche lo spin hanno detto che si sta alzando con i prezzi, che è una cosa, come ha capito che ce ne andava tanta gente, stanno alzando i prezzi, anche loro stanno alzando la cresta. Io guarda, senza andare tanto lontano, una volta ho visto Sgarbi alla festa di San Gavino a Porto Torres in mezzo alle bancarelle con due strafigone, alte, belle donne, eccetera eccetera, si è avvicinato al bancone dei panini, ci ha fatto i panini per lui e per le due ragazze, e quello gli ha detto no, non è niente, dice quanto è, no niente, lo offriamo noi, e poi magari ne dico tutti i colori dietro le spalle. E beh, a chi non piace, però cavolo, ce li hai i soldi, fallo pagare, no? Perché darli gratis? Perché sgarbi, magari ci va un poveraccio morto di fame perché ha fame, che non c'è soldi per comprarsi un panino, non glielo danno. È quello che mi dà fastidio, capito? Vabbè, è così, purtroppo va a rotoli per quello il mondo, perché non ci sono ribellioni. Guarda se lo fai in Spagna e in Francia, aumentare i prezzi, cosa tutto fa? Guerra civile, di tutto e di più. Facendo queste cose risvegliamo diciamo a Putin, che praticamente è già incazzato, si incazza ancora di più per queste cose. Vabbè, comunque, purtroppo non siamo noi che possiamo decidere, il popolo non c'ha voce capitolo, il fatto è quello, che decidono solo loro, e quello è sbagliato. Il popolo è sovrano. Dovrebbe essere così. E invece siamo messi male. In Russia, 6.000 al giorno ne stanno internando. Gli hanno messo già il coso, la taglia a lui, che lo vogliono morto. Non campa molto, te lo succede a Putin. Vedrai, fa la fine di Saddam Hussein, in qualche... lì in Siberia, lui e la famiglia lo troveranno e ce lo metteranno, o lo ammazzano, o lo impiccano, oppure fanno qualcosa. Presidente, ho sentito un po'. Ah, vuoi fare a me presidente? Cazzo, magari. Presidente dei condotti. E comunque è una questione di potere, dai. L'America è stata sempre così rissosa, alla prima occasione sempre tolto fuori le armi, eccetera, eccetera. Non condivido manco l'America, comunque la guerra è sempre la guerra e non è certo da condividere. Ci stiamo autodistruggendo noi, perché se buttano le bombe atomiche l'umanità non avrà più vita, è normale questo. Io già me ne vado a casa, cioè nelle grotte che ci sono a nudo, a me già non mi tocca quello. Allora, il bunker, mi metto le pecore, i maiali, faccio la salsiccia, dopo di che un po' di pannelli solari e la voglia che ce l'ho roba di l'acqua, la ce l'ho lì vicino, quindi non ho nessun problema, non ci tocca ai nudisti, non hai capito, ma a qualcuno ne tocca ai nudisti, può mandare quello che vuole, non ho trovato i latitanti, figura se trovano qualcuno, lì specialmente in Barbagia. Come passano i soldati, li ammazzano immediatamente, già a distanza di 5-6 km li vedono già, figurati, se pensavano già che stavano arrivando e li tentano. Ma se buttano la bomba atomica non c'è un rese che tengano, muoiono tutti, capito? Tutto quello che mangi c'ha radiazioni, tutto quello che respira radiazioni, per cui non ti puoi salvare. Non ti preoccupare, già ci mettiamo un po' di erba medica, mangiamo quella, avanti che stava parlando sotto di Gianni. E marijuana buone. Vabbè dai, vi lascio, vi saluto cordialmente, che sto andando giù a portare il cane a fare una bella passeggiata, dai. Ci sentiamo, buona serata, mi ha fatto piacere questo QSO. Statemi tutti bene, che vado a portare il cane, che questo qui sta già brontolando, dai. Ciao a tutti, QRT per me esecutivo. Ciao Gianni, buona passeggiata, poi ciao che è a te, amico. Saluto alle prossime, avanti l'amico era in macchina che non ha capito dove stava parlando sotto di Gianni. marito, Bubu. Alex di Buco, ciao a tutti, buonasera del ritratto. Ah, ciao Mari, siamo tutti. Ciao amico, ben ascoltato. C'è poco di te alle prossime. Avanti Mari, tu eri. No, io sono Marco, io saluto con la mente amico di produttore, ben ascoltato, ciao anche a Gianni, da Portaciale, se no se mi fai a casa. Allora, Tomè, sta a posto? Sì, così così, dai, non c'è che altro. Ho cercato di... Vabbè, oggi sto facendo roba con Giampiero. Insomma, devo aprire il cofanetto di sotto di questo apparecchio qua. E... sistemargli questa camera, ecco. Vabbè, così almeno a posto e lo chiudo questo apparecchio. Tenerlo così provvisorio è brutto, cazzo. Questo c'è un bene, ottima modulazione, chiarissima, va bene come cosa. Facciamo l'eco da controllare e basta, giusto? Sì, sono l'eco, tutto deve essere a posto. Tutto questo è tranquillo. Ti sento benissimo, non c'è problemi di niente. Di fatto sono 10, ti segna, anzi 15. Così sono quasi 6:30, quindi figurati. E così sono maletta. Va bene. Antonio, non ti nominato, non prendo una bottiglia d'acqua, c'ho 7, scusa un attimo. E io d'accordo. Sono entrato. Antonio, ascolta, che cambio microfono, mi dici come mi stai ascoltando, aspetta un attimo. Con questo va bene, sì? Sì, a voglia. Un attimino. Guarda, questo passaggio, uno non si trova vario. Adesso sei 9, con picchia 9 e 10, la di 5 è più forte. La modulazione è chiara, sì? Ehi, è chiara, perfetta. Se qualcuno mi dice anzi due non lo serve, non capisco nulla, io non ho capito perché, boh, vabbè, ho già capito io, va bene, mela. Adesso facciamo questo, avanti. Prego. Ciao Marco, salutoni. C'è il microfono, ti avevo fatto la connessione io del P4, agganciaci quello, va bene, è perfetto, non ti dà nessun problema. Se vuoi puoi mettere anche basta che sia gli stessi collegamenti del 3009 con S4000 e se non mi ricordo male è quello che ti ho lavorato io quando c'è frequenza massima celeste, mi sembra che va bene come attacco. Avanti Marco. Saluto Marino, saluto Antonello. Mari, ieri spazzolando tre canali ti avevo sentito quando appunto ti copiavano male e devo dire che aveva una specie di, si trascinava come una risonanza strana la modulazione, però solo ieri, oggi non te lo sta facendo. Una modulazione, una risonanza strana tipo cassone, non ti so fare un paragone. Alla fine ti faceva una specie di non te lo so dire, o l'apparecchio era troppo caldo, era troppo freddo, o qualche impostazione non era perfetta, però ieri c'era questa cosa strana per cui magari io ti capivo comunque, però l'altra persona aveva difficoltà. Oggi sembra che quella distorsione, ecco, distorsione è la parola giusta, non ci sia. No, ho capito, ce l'ho messo esatto. Già, come qualcuno adesso, sono due persone che non mi ascoltano bene, non lo so. E stanno utilizzando questo microfono, questo microfono. Aspetta che attacco la tapparicchio, stacco qui, attacco l'altro, non vuoi solo come ascolti. Scusa un attimo, Allora, senza me. Sai cos'è? Il problema tuo è la tonalità della voce che c'hai. Perché se ti ricordi bene, con lo Zodiac ci mi sembra uscivi tutto strano, con la Fayette uscivi tutto strano, ti ricordi? Avevo dovuto modificare il microfono per poter essere comprensibile. Perché tu parli molto veloce e a volte magari qualcuno non ti capisce tutto lì. forse per quello, o magari non hai inserito il processore, che ricevi senza processore o quello là. Cioè, guarda in questo passaggio ancora di voce. Così c'è la modulazione fine metallica. E adesso come? La stessa cosa. Comunque c'è la modulazione stessa? Sì, chiara, ma per la pena metallica. Ok, grazie, va bene. La modulazione sarà solo questo, ok. Attacco l'altro, va. Riprendi l'altro. Ascolta, allora Marie, io ti ascolto però con una modulazione non limpida, è come sporcami, come satura o comunque non limpida, mentre col tuo solito apparato sì, hai dei toni molto bassi, sarà la voce, sarà la modulazione, il tipo di apparato, no? Questa però è sì più fina, ma è non limpida, mi è sporca, è come satura, graffiata, mi non so come definirlo. Aspetta un secondo, faccio io solo. Meglio? Guarda in questo passaggio se va bene. Meglio, meglio, molto meglio. Ok, ho passato qualcosa, meglio che hai. Allora, senti me. Adesso si apparato più basso di cosa, sì, di amplificazione. Forse dovete regolare i toni, magari con l'apparecchio lì, non so se c'è processore, quello che quello che stai usando, che non posso dire, ma comunque sia, adesso riesci come se avessi il microfono normale. Ok, vabbè, lasciamo così adesso, lasciamo di fuggia, lasciamo così, bene, bene. Bene, avanti nella collina, come andiamo, sta a posto, Marco? Eccomi, un attimino che mi ero allontanato per bere, adesso sei tornato con l'altro, col primo... No, negativo, sempre col secondo, ho lasciato così, tu mi hai detto, va bene, ho passato qualcosa e... Te lo voglio lasciare così se va bene, dai. Eia, probabilmente anche il tuo timbro di voce, Marie, che io te l'ho sempre detto che ti sentivo come un po' cupo, un po'... Già lo sai, dai. Comunque ieri c'era una distorsione, era anche strana come distorsione, ed è come se la trascinasse appena appena, poche frazioni di secondo dopo la parola stessa, una cosa tipo non te lo so imitare, Maria, una cosa strana. Comunque è vero, ecco perché ti sentiva male ieri quella persona. E ok, adesso ho abbassato qualcosa, guarda se va bene, adesso sto aumentando, ho messo, guarda se va bene adesso. Ah, caro caro. Benino, benino, sempre un po' la timbrica tua. Avanti caro caro. Ehi. Avanti caro caro. Eia, ciao, ciao a tutti mi. Sono col portatile, sono stavo ascoltando così, mi sto salutando che io devo fare cosa stanotte. Ciao bombolone, cosa devi fare l'amore stanotte? Pure tu mi senti da lì, caspita, bubu, con un roccio di cumburu. Andare, va benissimo Antone Bantu, va benissimo. Un Santiago di 5, la radio è già posto 4, ma va benissimo, è chiarissimo Antu. Ah, su pure lì arrivo, bubu, c'ho un coso, un roccio di cumburu, su contrattendimi, va, non ho attaccato l'antenna grande. Va bene, là, qui a ciao, arrivi abbastanza bene. Avanti Antone. Eia, cappa. Io ti sento anch'io, Antu, ti preoccupare tu. Antu, la modulazione è molto bella, che apparecchio è, si può dire? È l'Intec, il portatile. Cacchio, sì, una timbrica neutra, normale, no, però è buona, per essere un portatile, perché io tutti i portatili che ho sentito, soprattutto gli Intec, uscivano male, e che Intec è, si può dire? Cazzo, non è segreto di Stato, no, H520 Plus, è il migliore che abbia mai fatto l'Intec, questo, Si sente, sì, lo conosco, quello era veramente bellissimo come portatile, adesso si spiega tutto, quello è un signor portatile, quello te ne di Lugontumi, perché la Intec non lo fa più, mi pare che non esista più la Intec, lo sai, è sparito anche il sito, e credo che abbia, o chiuso, si è convertita per altri usi la Intec, Ok, riprendi Antonello. E io vedete sono arrivati adesso, non ti preoccupare per i componenti. Compresa l'IKEA. Stanno chiedendo tutti, stanno chiedendo, cazzo. Andiamo bene, ma cosa la mette i pneumatici e i pezzi per le auto, siamo a posto a me. Tra poco vedrai che venderanno le macchine a metà prezzo. O di venderle. È un caso, no, è un'ottima operazione, e appunto va benissimo come radio, va bene. Oh Marco, guarda che attacco, guarda come la modulazione in questo passaggio, si è migliorato oppure è normale come poc'anzi? Allora, adesso ha avuto una sorta di booster, di aumento proprio di modulazione netto, però non so se tutti stia autoascoltando, si è sentito come una specie di inneschetto. Prova, fai un passaggio lungo, però spegni tutto l'autoascolto che hai, tutti gli altri baracchini. Tutto staccato, no, tutto staccato perché so che fa casino se lascio staccato qualcosa. Guarda, in questo passaggio, uno, due, tre, prova, prova radio, avanti. Ma sento una cosina che fa sì, sì, sì, Antonello, mia impressione. Sembra la dentiera che fischia per esattezza, che fa... Allora, è come se fosse una lamella sottile, magari dentro al microfono, una membrana tipo metallica che oscilla e fa questa specie di... Lasciamo senza compressore, va bene. Abbiamo parlato in due, Maria. Ho detto, era come una specie di membrana sottile metallica che vibrando, magari dentro il microfono, faceva questa specie di... C'ho il compressore, ovvia, lo capo mio. C'ho l'avventura dell'alimentazione, la sento io qua. Lasciamo tutto così, già va bene così, dai. Avanti Antonio, a cantare devi andare. Antonio, la forza è chiusa, avanti Antonio. Ok, oggi. A cantare, stavolta c'è il capitano, c'è in via Bugino. Ma poi c'è una nuova persona che lì va a suonare sabato e domenica dalle 9 a mezzanotte. Sempre via Bugino? Ma che locale, quel bar che c'è? Circolo è quello. Ma dove rimane? Perché il calzolaio? Mi sto sbagliando. Guarda che... ti ricordi dove lavorava Battisi una volta? Che vendeva le bombole. La Spezia, ha fatto un circolo, perché lì era un bar una volta. Ha fatto un circolo, l'ho fatto, infatti. Capito? E in pratica rimane aperto dalle... alle 6:30 fino a mezzanotte. Poi vabbè, il coso è da 9 a mezzanotte, sabato e domenica. Beh ragazzo, vi saluto tutti, ciao ciao. Antonio, a fare karaoke devi andare. A domani se concilio ti manda Marco, avanti Marco per salutare Antonio. Eia, ciao ciao a tutti. C'è una giugana, dai. Ehi, dai. Ciao Anto, buona serata, buon tutto, buon divertimento soprattutto, che di questi tempi ce ne vuole. Cazzo, sono costretto molto, cazzo. A me non può rilassarmi, a già balle bene. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Aspetta, Anto, che ti mando una cinese, che ti faccio fare un po' di massaggio, va bene, si va. Non dici che ci gozi, che... adesso con comunicazione, no, che... va bene, ciao. Ciao, Antonio, ci sentiamo, dai. Avanti, Antonio. Ciao, Antonio, ci sentiamo. Alle prossime, se vai di capitano, è meglio che... ma è solo per ridere, perché ce n'è una che ci va lì a dare 6:30, che è una colla, un collante sembra, ragazzi, per carità. Poi l'ho vista l'altra volta, ma ha preso un buca di rigato, pucci pucci, un collante, ragazzi. Ehi, va bene, Antonio, passare mezza serata già va bene, dai, tanto per divertire. Ok, io ne approfitto, Antonio, che mi sta chiamando mio nipote, vuol dire che è pronto, su. Bene, ciao Antonio, ben sentito, saluta della signora. Ciao Marco, idem, ci sentiamo alle prossime Avanti Marco, e per me QRT saluto anche tutti gli ascoltori. Avanti Marco. K Marino, dai, buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Ok? Vai Antonello. Ciao Marino, ci sentiamo comunque le tia alle prossime. Andrà bene. E allora Marco, cosa hai combinato di bello? Di bello, vabbè, bello niente di che. Stasera mi stavo azzuffando in macchina con questa antenna che è risultata elettricamente lunga e quindi bisogna tagliare una sezione di filettino di acciaio. Una volta ho provato a tagliarlo di un'altra antenna con le tenaglie, quelle le cesoie, come le puoi chiamare, certo non molto grandi come cesoie, ma all'anima, per tagliare 1,5 mm d'acciaio si stava rovinando la cesoia e non tagliava, già è poco duro l'acciaio inox, e allora faccio prima usare il seghetto. Ma anche col seghetto non fai quasi nulla, anche perché se fai 5-10 mm per volta ci vuole una pinza e poi devi tagliare a metà col seghetto, se no un tubo da taglio, quello è lo stilo, ce lo sei anche tu. Anzi, Antonè, guarda che le cesoie, quelle lunghe, quelle da tagliare i lucchetti, le catene, vabbè, sono piccole, ma io l'avevo tagliata proprio per accorciare antennini che non puoi regolare fisicamente, no? Che non hanno stub. Ma all'anima, non dico quel ferraccio, quell'acciaio dolce, no, ma l'acciaio inox, si stavano intaccando le lame della cesoia lì. Porca paletta, avevo fatto un bel di fatica. Questo è più sottile però, questo è già più sottile. Vabbè, non assai, saranno 2,5 mm, penso. Figurati. Ma è così, guarda, la tubo 2001 è la più disgraziata che c'è come antenna, ha tagliato lo stilo, ha creato sempre un sacco di problemi, invece la PLC 800 e la PLC 1000 era facile a farla. Beh certo, se tagli in punta è sempre più sottile, però la turbo è grossa, mi pare, anche in punta, o sbaglio, o è conico lo stilo, va a sottigliarsi, sì, è uguale. Solo che è più grossa di altre, anche la base, e lo stilo è bello generoso, bello teso. No, guarda, io dovrei tagliarne 2 mm, e infatti è talmente ridotto lo spazio che se poi taglio troppo risulto, vabbè, una volta che gli taglio quei 2-3 mm posso allungarla con le vitine, no? Il problema è che è troppo lungo, anche mettendo tutto giù, abbassandolo tutto e stringendo le brugole, è ancora elettricamente troppo lunga, devo intervenire tagliando e devo stare anche molto attento, se no ci butto l'antenna. Beh, quello sì, devi stare piano, taglia finché non arrivi a 1,1, dopodiché basta, mettiti su 40 e fai la taratura, ti addossa a memoria, quindi se non avrai problemi, perché se vai su 20 sei fregato. Beh, sul 20 il centro banda, Antonè, io sempre, che quando so che il centro banda è a metà, gliela faccio pari dall'1 al 40, per esempio quella frusta nera che avevo tarato per prova, che poi non userò io, l'avevo tarata millimetro per millimetro, l'avevo fatta, c'avevo subito di taratura quella, però 1,35 sull'1 e 1,35 sul 40, perfetta, sul 20 uno sta a 1, non si muoveva nemmeno. Meglio così, ma di solito io facevo, quando c'era un 200 canale passavo sul 40 direttamente per non stare a assillarmi, mi risultava 1,1 dal 40 in giù e 1,1 dal 40 in su. Ehi, beh, per esempio l'antenna che uso io in macchina, quella da 1,5 m, 1,60 m, no? La solita, è l'unica che poi è quella con cui mi sono trovato meglio. La votata sul 40 al centro banda, ci avevo circa 1,2, cioè meno di 1,2 sull'1, fai 1,2, dai, 1,2 sull'1 e 1,2 sull'80. Cioè poteva andare dall'1,80, c'aveva 1,2 agli estremi. Sul 40, 41 era al centro banda e proprio non si muoveva nemmeno. E così vuole. Di tanto magari così, perlomeno. Io ho sempre fatto, ma vabbè, dall'1 al 40, cioè sul 40, perché c'era 200 il canale di sotto e il canale di sopra. Poi qui c'era 40 canali e facevo direttamente sul 20, basta. Sì, naturalmente, poi con l'antenna vai sotto, ti fa altri 40 sotto, forse anche 80 sotto ti fa, e sopra 27,9 puoi arrivare, cioè li tiene, capito, non hai stazionarie pericolose, basta che stiano sotto il 2 in macchina e poi sai cos'è, tanto mi, tu l'antenna la tari in zona aperta, poi però quando guidi c'è il traffico, c'è la macchina a fianco, quindi stazionarie un po' salgono, no, salgono e scendono, basta che una macchina ti superi e vedi che si muovono appena appena. Tipo Fustanera, di quel modello vecchio. Sì, sì, quelle del 90, anni 90. E sai cos'era? Quello era il radiale della Boomerang full size della LEM che mamma usava quando modulava in gallura. Tipo Maddalena, Palau, eccetera. Il resto è distrutto, però il radiale è rimasto. C'è la stube di taratura, io l'ho provata su base magnetica perché io quella uso, ci metto un po' di tutto. E devo dire che, ma lo sai, addirittura che avevo lo stesso segnale, la votarata in area libera, avevo lo stesso segnale contro la Frustanera e un metro, buco e tutto. Avevo lo stesso segnale di quella da 1,5 metri. Non è cambiato, capito? Anche la ricezione era uguale. No, le belle antenne c'erano un sacco di anni fa. C'era anche la Colibri. C'erano state antenne buone per la macchina. Quelle lunghe lunghe anche. Quella bella era quella fatta con mollone. Come quella del Carl Armato. Che usavano gli americani più che altro con l'antenna di me, che c'è il mollone sotto stretto, al centro largo, poi sopra è stretto di nuovo e poi partivale, come si chiama, stile militare, quella è l'antenna americana che non mi ricordo come si chiama. Sì, sì, le trovi, trovi tutto, le produce anche l'Assirio. Aspetta un po', fermo lì. PTT, vabbè. Allora, produce anche l'Assirio, sono i modelli tipo americani e hanno l'attacco a 3/8 di pollice. Volendo puoi comprare anche quel mollone che hai detto tu, quello stretto all'estremità e più largo a metà. E sono tutte tarabili, hanno sia lo stub di taratura molto visibile con quel cappuccetto a vite, oppure hanno un cappuccetto di gomma in punta, lo togli, muovi la vite, la sviti e la viti, poi serri il dadino e la tari come vuoi tu. E ci sono tutte le misure, c'è da 90 cm, cioè intorno ai 90, intorno al 1,20 m e intorno al 1,40 m. Sì, si trova tuttora, cioè chi le vuole se le può comprare, marca Sirio. Sono fatte bene, addirittura una, c'è una doppia elica, c'era scritto double coil, cioè il filettino che si avvolge lungo il supporto di vetroresina, non è singolo, è doppio, capito? In modo da sopportare il massimo dei watt. E anche quella tarabile e tutto, solo che questo attacco 3/8 a me non interessa più di tanto. Poi trovi gli adattatori e trovi gli adattatori a piele, che quelli sono pesanti un po', cioè lì devi usare un attacco non base magnetica, una cosa più stabile devi usare. Le puoi mettere in camion, le puoi mettere allo specchietto, infatti sono antenne per camion più che altro. sempre nere, nere di colore, nere come, come era la vecchia frusta nera. Sì, ho capito. Mi sei spostato un bel. Un attimo cosa vuoi? Che me l'hai cazzo per altri ripeti, cazzo. Ma io penso che. Aspetta un attimo. Cacchio è questo? Prova, prova, prova. Prova. Prova, prova, prova. Riuscito a metterlo a posto, cazzo, boh. Andavo anche in cose, in LPD, e io ho detto, cazzo, c'è più potenza in LPD questa baracchina, ho detto, strano, in PMB me la dai meno, in LPD me la dai più. Sì, perché sono tarati sempre intorno ai 4,40, così, 4,30, 4,40, cioè verso il basso. Sì, infatti, da un po' che non usavo questa baracchina qui. E lui sta adesso, adesso l'ho messo a posto, a meno che aspetta, non mi sto sbagliando io, ci avete? Sì, già è giusto adesso, ok, oh ia ia, forse qualcuno ha tutto subito l'FM, eh? Gli avevo dato la risposta questa settimana, gli avevo dato almeno 5 o 6, se non fosse 10. E chi? Un amico, deve svuotare e c'è un po' di roba, adesso mi deve dare la risposta, devo andare lì e prendermi. E sia roba in ordine, perché quelli là sono fatti bene, quelli da quel sito, i due ingressi, quello frontale e quello posteriore, con le BNC, con gli attacchi RCA, la potenza regolabile bassa o alta, bassa per le tarature, alta per l'uso normale, gli ingressi sono regolabili, mentre una volta, se tu ti ricordi quello che avevi 40 anni fa, con lo CTE, era una scatola, non c'aveva nulla, ti ricordi? Eppure da Riccendo arrivavi a casa, basso nel QRM ma arrivavi. E tu stai facendo i pacchetti 428 della CTE, stai dicendo. No, questi sono professionali. C'è uno che lineare, da 150 watt. Addirittura, minchia. Va bene, una cautela. Non bruciare tutto. Cappa. Oh, caro Antoniddu, le 9:20, io mi devo ancora pigliare il caffè. Però decaffeinato, perché ieri notte sono stato quasi male, lo sai. C'è un respiro corto. Vediamo, questa è la volta buona che mi rifare un raio. Se ti ha fatto male il caffè ieri notte, non prendere stanotte il caffè. Lascia perdere, vuol dire che sei arrivato al limite che ti fa. È come le fave. Stai 20-30 anni mangiando fave fresche, cotte, eccetera, eccetera, arrivi a un certo punto, come è capitato a me, scendo a Tiesi con Giovanna e prendo questa busta dallo speaker che ci hanno regalato, c'era fave, c'era. Io neanche ne sapevo che c'erano fave, la fave, me ne sono accorta di torno. Ci hanno regalato fave, quella di mula, altra roba, pasta, budini, eccetera, eccetera. Mi hanno regalato un po' di roba, hai capito? Arriviamo lì a Tisi, cazzo, e non ci fermano i carabinieri, cazzo. Dove state andando? Ho detto, stiamo andando in ospedale, ho detto, perché ci vuole accompagnare io? Ho detto, no, perché se stavo facendo un posto di lavoro, stavo cercando una macchina, ho detto. Poi non ho detto che macchina era. Hai capito? No, ho detto lui, siamo in Sassa, ha detto, stiamo andando a trovare, non mi fa appello. Ti ho ricoverato lì all'ospedale di Tiesto. Dice sì, andate pure. Siamo andati, abbiamo parcheggiato la macchina, l'abbiamo lasciata chiusa, eccetera, eccetera. Dopo che siamo stati un'ora lì con Giampiero, usciamo. Tac, torna allo stesso punto i carabinieri. Come hanno visto la macchina, andate tranquillamente a Sassari. Abbiamo salutati. Cominciamo verso Bonnanna, dove Bonnanna, Lomore, se quella già c'è lì, c'è Montesanto, a sentirmi strano, questa specie di mal di testa, strano e sonnolenza. E da Giovanna Bui, io mi sento strano, ho detto, non lo so, e tu Giovanna, dice anch'io, dice che ci abbia fatto male, io ho detto forse l'odore dell'arco, della medicina che usano all'ospedale, eccetera, eccetera. Ho preso, aperto il finestrino e lì è un po' passato, ci siamo ripresi. Arriviamo a Sassari, come siamo arrivati in via Rockefeller, prendo e chiudiamo il finestrino e ho detto no, già va, qui c'è qualcosa che non va. Prendo, ci siamo fermati, controllo dietro alla sedile mio e non c'avevo la busta, cazzo, di fare fresche, cazzo, oggi abbiamo la busta e tutto, è stato rampato tutto. Ma perché siete fabici? Giovanna era fabbrica, io no, io mangiavo le fave, anche Giampiero le mangiava, figurati, un anno prima. Guarda che io compravo le fave, le rospin, quelle che vendono in busta, quelle fresche, ghiacciate, la congelatore, non le facevo con peperoncino o cosa del genere. E Simona non le sopportava, me le facevo io, Simona se andava in camera dove quando abitavo la mamma, se andavo in camera di Giampiero, hai capito? Mai mi è capitato una cosa del genere, che me ne sono accorto per sbaglio, la verità. Se io sento loro di fave fresche, anche intanto loro spimmi, che subito mi sento strano. Vabbè. Stavo per farti una battuta, non è che eravate cotti, no, tutte e due. Eravate sonnolenti per quello, è un mal di testa. No, altro che cotti eravamo, cazzo. Era quel giorno, quando entro da due spini d'estate che ci sono le fave fresche, entro con il coso, veloce, e me ne vado pure, non sono l'altro. Prima le lasciavano, ti ricordi, fresche, adesso invece sono obbligate a metterci il cielofan sopra, hai capito? Perché a un sacco di gente fa male l'odore, cioè quello che fa più male è il fiore delle fave, però anche le fave fresche ti creano problemi, hai capito? No, come il fiore, però ti crea problemi. Guarda, mi ricordo tanti anni fa una figlia di un'amica di mamma, basta che passasse in campagna lì, noi facevamo molta vita all'aria aperta, basta che passasse in un campo dove c'erano piantate fave in un certo periodo, soprattutto nell'anno, probabilmente come tutto con la fioritura, cominciava a diventare bianca, a sentirsi male, per carità, doveva girare alla larga dalle fave, mamma mia, a distanza mica, tipo radiazioni. E non te lo ricordi che mai rimasta si era sentito male, lui si faceva le fave, mi scendeva in campagna, tutti i giorni, ma ho pensato le fave, quel giorno lì babbo non c'era sceso in campagna, è sceso, si è fatto le fave, c'erano le piante in fiore e mi ha telefonato un domani, mi fa fatto lei, guarda che ti sono a pronto soccorso, e ho detto cosa cazzo ci fai a pronto soccorso, vuol dire, sono sceso dalla tua padre, mi sono fatto le fave, cazzo, e mi hanno fatto, dice, da... sono stato ricoverato oggi da solo, dice, crepaf, mi hanno fatto il lavaggio del sangue, gli hanno fatto tutto, completamente, è rimasto quasi un mese lì ricoverato. Dice, ma tu sei scendendo, ho detto, tutti i giorni, ho detto, te le mangiavi, ho detto, ma sei scemo. Se tu dici, no, tu lei, cazzo, a me le fave mi hanno fatto male, c'era il fiore, al momento dice, non crepo. Infatti, se ti ricordi, parlava... all'ospedale con Baracchino, se ti ricordi tanti anni fa. No, Antone, tu mi dici, ti ricordi? Io non posso ricordarlo, no, non l'ho mai sentito in radio, no, non lo conosco, non frequento poi con quel tipo di... e quindi non posso ricordarlo. Sta succedendo, ho capitato a lui, lui scendeva tutti i giorni in campagna, capito? Scendeva spesso tutti i giorni in campagna a trovare mio fratello, a fargli compagnia, un po', capito? Perché già prima abitava lì, poi per lui... E cazzo, mangiava di tutto, susine, eccetera, eccetera, tacchi, quello che c'era. O di bello, e invece un giorno ha mangiato quelle, sceso con le piante in fiore, cazzo. Ha preso le fave, gliel'ha mangiata, l'ha crepato, cazzo, è finito all'ospedale, l'urgenza. Va bene Antonio, io ti lascio, faccio la caffetteria anche per mamma, ok? Ci sentiamo quando capita, stanotte non credo che rientrerò perché vorrei guardare un po' di televisione, che ne sto seguendo ben poca, ok? Ci sentiamo Antonio, e poi se posso faccio una scappatina, magari ci beviamo qualcosa quando capita, ok? Ciao, buona serata, saluta Simona e anche Giovanna quando lo vedi, ok? Ciao Antonio, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo a livello buono, quando vuoi, domani, dopo domani, quando mi vado in piazza. Già te lo faccio sapere in anticipo, dai. Ok, ciao Antonio, ciao. Ciao.